Canto terzo della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto terzo. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore. Per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fur cose create se non eterne, ed io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vid'io scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, il senso lor m'è duro. Ed egli a me, come persona accorta, qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siamo venuti al luogo ov'io t'ho detto, che vederai le genti dolorose c'hanno perduto il ben dell'intelletto. E poi che la sua mano alla mia pose, con lieto volto, ond'io mi confortai, mi mise dentro alle secrete cose. Quivi sospiri, pianti ed alti guai risonavan per l'aere senza stelle, perch'io al cominciar ne lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte fioche e suon di man con elle, facevano un tumulto il qual s'aggira sempre in quell'aria senza tempo tinta, come l'arena quando il turbo spira. Ed io, ch'avea d'error la testa cinta, dissi: maestro, che è quel ch'io odo? E che gent'è che par nel duol si vinta? Ed egli a me: questo misero modo tengon l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli, che non furon ribelli, né fur fedeli a Dio, ma per sé foro. Cacciarli ciel per non esser men belli, nello profondo inferno li riceve, ch'alcuna gloria i rei avrebber d'elli. Ed io: maestro, che è tanto greve a lor che lamentarli fa sì forte? Rispose: dicerolti molto breve. Questi non hanno speranza di morte, e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia gli sdegna. Non ragioniam di loro, ma guarda e passa. Ed io, che riguardai, vidi una insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni posa mi pareva indegna. E dietro le venia sì lunga tratta di gente ch'io non avrei mai creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, guardai e vidi l'ombra di colui che fece per viltate il gran rifiuto. Incontanente intesi, e certo fui, che quest'era la setta dei cattivi, a Dio spiacenti ed a nemici sui. Questi sciaurati, che mai non fur vivi, erano ignudi, e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi. Elle rigavan lor di sangue il volto, che mischiato di lagrime a lor piedi, da fastidiosi vermi era ricolto. E poi, che a riguardare oltre mi diedi, vidi genti alla riva d'un gran fiume, perché io dissi: «Maestro, or mi concedi che io sappia quali sono e qual costume le fa parer di trapassarsi pronte, con mio discerno per lo fioco lume?» Ed egli a me: «Le cose ti fien conte quando noi fermeremo i nostri passi sulla trista riviera d'Acheronte». Allor, con gli occhi vergognosi e bassi, temendo che il mio dirgli fosse grave, infino al fiume di parlar mi trassi. Ed ecco, verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando: «Guai a voi, anime prave, non isperate mai veder lo cielo! I vegno per menarvi all'altra riva nelle tenebre eterne in caldo e in gelo. E tu, che sei costì, anima viva, partiti da cotesti che son morti!» Ma poi, che vide che non mi partiva, disse: «Per altre vie, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare. Più lieve legno convien che ti porti». Il duca a lui: «Caron, non ti crucciare. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare». Quinci fur quete le lanose gote al nocchier della livida palude che intorno agli occhi avea di fiamme ruote. Ma quell'anime, che eran lasse e nude, cangiar colore e di batter i denti ratto che inteser le parole crude, bestemmiavano il Dio e lor parenti, l'umana specie, il luogo, il tempo e il seme di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo, alla riva malvagia ch'attende ciascun uom che Dio non teme. Caron dimonio, con occhi di bragia, loro accennando tutte le raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. Come d'autunno si levan le foglie, l'una appresso dell'altra, infin che il ramo rende la terra tutte le sue spoglie, similemente il mal seme d'Adamo gittansi di quel lito ad una per cenni, come augel per suo richiamo. Così sen vanno su per l'onda bruna, e davanti che sien di là discese, anche di qua nuova schiera s'aduna. «Figliuol mio», disse il maestro cortese, «quelli che muoion nell'ira di Dio tutti convegnon qui d'ogni paese, e pronti sono al trapassar del rio che la divina giustizia gli sprona, sì che la tema si volge in disio. Quinci non passa mai anima buona, e però, se Caron di te si lagna, ben puoi sapere mai che il suo dir suona». Finito questo, la buia campagna tremosi forte, che dello spavento la mente di sudore ancor mi bagna. La terra lagrimosa diede vento, che balenò una luce vermiglia, la qual mi vinse ciascun sentimento, e caddi come l'uom cui sonno piglia. Fine del canto terzo.